Un'altra produzione, un'altra traccia. 006 consenso. Se ancora DJ Spider, Goblin e Freak. Senza senso. Questo stile a mostro a you. Ritata verso Diana Ryu. Potenziale inespresso, riverso su queste note. Portami tote in tue orecchie, io rappo le strofe. Volevi catalogarmi, accetto le tue scuse. Sta roba non è come altre, nuoce alla salute. In giro, venduti sterili, subita nemici. Ascolto e pure critico, ma lo si fa da secoli. Qua la cosa è seria, dalle orecchie arriva in vena. E non è una cantilena, come una preghiera. Passione vera, ogni mio loop testimonia. Sono il ragno che con le barre teste la sua storia. La noia non ti prende con lo stile che ti rende. Ogni componente fuori agli occhi della gente. Zona vesuviana, sballo tipo electroshock. Vedrai raggi B come eroi nel movie di Scott. Ancora è pop e non è il solito spot. Ma abbiamo troppe adiacenze nei nostri stock. Ancora in pop per le nostre menti. Ancora in pop per i nostri lamenti. Ancora in pop per le mie giornate. Senza senso come tante, ma da rap risollevate. Ancora in pop per le nostre menti. Ancora in pop per i nostri lamenti. Ancora in pop per le mie giornate, senza senso come tante, ma da rap risollevate. Con Vesuvio in comune noi spacchiamo da qua giù. Senza senso il nome, la brigata e la crew. E per rappresentare mi basta uno showroom. Parco, una base e nulla di più. One, two, inizia lo show. I soci su palco, i nemici allo zoo. Nient'altro che low per i miei fratelli. Per una cultura che ci ha resi gemelli. Still hip hop, ancora hip hop, ancora hardcore. Come un sexy shop ed è già da un po' che va avanti questa storia. Moltiplicati come una colonia di virus in primis. La nostra voglia, senza soldini do rap a tenaglia. E scusate il disturbo, ma devi rimanere sveglio. Ancora in pop per le nostre menti. Ancora in pop per i nostri lamenti. Ancora in pop per le mie giornate. Senza senso come tante, ma da rap risollevate. Ancora in pop per le nostre menti. Ancora in pop per i nostri lamenti. Ancora in pop per le mie giornate. Senza senso come tante, ma da rap risollevate. Brigata vesuviana come Giovanni Rana. Gusto classico, questo mastico. Mistico, sadico, medico, pratico, carico. Attiro più di un fuggiasco in Messico. Stai sul palco che brindiamo a rum. Ti scoppi testa come tequila boom boom. Vedi come sono cool tipo Sean Paul. Attiro gente più del Super Bowl. Su di un pad osceno tipo dei Sad. Incensurabile, stile inescapabile. Esplosione imminente a luci spente. Lo stile che da niente dipende. Ancora hip hop, ho più rime io che vero Robocop. Senza senso il rap, nuovo scoop come una sola che fa l'app. E questo stile cut wrong mag solo o big up. Ancora hip hop per le nostre menti. Ancora hip hop per i nostri lamenti. Ancora hip hop per le mie giornate. Senza senso come tante, ma da rap risollevate. Ancora hip hop per le nostre menti. Ancora hip hop per i nostri lamenti. Ancora hip hop per le mie giornate. Senza senso come tante, ma da rap risollevate. Ancora hip hop per le nostre menti. Ancora hip hop per i nostri lamenti. Ancora hip hop per le mie giornate. Senza senso come tante, ma da rap risollevate. Ancora hip hop per le nostre menti. Ancora hip hop per i nostri lamenti. Ancora hip hop per le mie giornate. Senza senso come tante, ma da rap risollevate. Produzioni DJ Spider. Per tutti i saccheroni che inquinano sta scena. Tanto!